Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A voi tutti, cari ascoltatori, un saluto. Eccoci al nostro appuntamento mensile con la parola di Dio, in questa trasmissione in cui stiamo facendo la lettura continua degli Atti degli Apostoli. Come forse qualcuno di voi ricorda, la volta scorsa abbiamo terminato la nostra lettura al capitolo 18 con Paolo che si trovava a Corinto. Quindi questa sera faremo ancora un passo avanti e vedremo come Paolo da Corinto si sposta nella città di Efeso. Fin dall'inizio di questa trasmissione chiedo allo Spirito di Dio di accompagnare la nostra condivisione della parola. Davanti alla parola di Dio siamo tutti discepoli, anche se in questo momento a me è chiesto il dono, il servizio di spezzare questa parola per ciascuno di voi, ma siamo tutti discepoli della parola. La parola, come vedremo, è anche la grande protagonista degli Atti degli Apostoli, è lei che guida, è lei che traccia il cammino attraverso chi in qualche modo la serve. Ecco, la prima parte del nostro momento di condivisione sarà guidato da me, la seconda parte invece sarà dedicata ai vostri interventi, quindi le vostre domande, alcuni spunti di riflessione che ci aiuteranno magari ad approfondire alcuni aspetti che nei primi 45 minuti posso aver lasciato solo in superficie o magari toccato troppo di fretta. Lo Spirito ci accompagna in quest'ora e mezzo in modo da renderci tutti discepoli di quella parola, parola che in Maria ha trovato dimora, che in Maria si è fatta carne, che Maria ha portato come prima apostola a molte persone. Bene, a quanti di voi sono nella possibilità di farlo, chiedo di prendere in mano un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento e di aprirla al capitolo 18 degli Atti degli Apostoli, esattamente al versetto 23. Cominciamo con la lettura del testo. Paolo rimase un certo tempo ad Antiochia, poi partì e percorse successivamente le regioni della Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli. Ecco, dopo l'esperienza di Paolo a Corinto, Paolo viaggiando lungo le sue comunità, torna da dove era partita la missione, torna cioè nella chiesa madre di Antiochia. Ecco, il nuovo viaggio missionario, che è il terzo sostanzialmente, inizia con Paolo protagonista. Il brano su cui oggi ci soffermiamo si apre mettendo al centro ancora una volta lui. È terminato un importante viaggio missionario e Luca tiene a sottolineare come dietro Paolo ci sia una comunità. Paolo torna sempre, stando alla versione degli Atti degli Apostoli, torna sempre alla Chiesa Madre, torna sempre ad Antiochia, che è la chiesa dove lui è stato forgiato dopo che Barnaba era andato a cercarlo a Tarso, e il suo obiettivo è anche di tornare a Gerusalemme, che è la culla, la Chiesa Madre di tutto il cristianesimo. Avremo modo di vedere come sia negli Atti come nelle lettere le chiese madri per Paolo sono un ambiente che lui rispetta, ma che in un certo senso a un certo punto è un ambiente troppo ristretto. Però Paolo non perde mai le sue radici. Lì è il luogo dove lui ha sperimentato l'amore di Dio, dove è stato generato alla fede, e anche se ora il Signore gli ha prospettato degli orizzonti ampi, lui torna ad Antiochia. Perché? Perché è convinto che la missione non è una missione affidata a un singolo, ma è una missione affidata alla Chiesa, e questa è una convinzione che Paolo ha molto forte dentro di sé, tanto vero che nella sua itineranza missionaria Paolo non porterà mai avanti una missione in solitudine, ma cerca sempre di coinvolgere attorno all'annuncio del Vangelo dei fratelli e delle sorelle. Il confronto con la comunità gli è necessario. Paolo stesso cresce grazie a questo confronto, anche là dove Antiochia o Gerusalemme possono avere delle visioni diverse, distinte dalle sue. Allora, notiamo come il terzo viaggio missionario si apra proprio nell'orizzonte della comunità cristiana. Mi piace ricordare questo nella giornata di oggi, no? 19 giugno. Oggi la Chiesa celebra i santi Gervaso e Protaso, che sono anche i patroni della mia comunità d'origine, della mia chiesa d'origine. Io sono originario di un piccolo paese della Bergamasca che si chiama Bariano, che è proprio dedicato alla chiesa, la comunità di Bariano è dedicata a questi due grandi protettori. Quindi, come per Paolo, anch'io sono un po' ricondotto quest'oggi alla chiesa madre. Bene, in questa chiesa madre ci viene detto: Paolo rimase un certo tempo, poi partì. Il certo tempo non ha nemmeno lo spazio di un versetto al capitolo 18 degli Atti degli Apostoli, il che ci fa capire che Paolo si è radicato nella chiesa, nella comunità delle origini, ma una certa inquietudine lo abita. È difficile trovare Paolo fermo. In genere Paolo è l'apostolo in movimento, anche quando sosta nelle comunità non si ferma molto nelle comunità. La comunità dove si ferma di più, stando alla narrazione degli Atti degli Apostoli, è la comunità di Efeso, che oggi appunto vedremo nell'itinerario di Paolo. Come mai questa inquietudine nell'apostolo? Cosa lo spinge ad andare e a ripartire, andare e ripartire? Penso che nel cuore di Paolo ci siano almeno tre dimensioni che rendono la sua adesione alla comunità un'adesione aperta, con la spinta in uscita. Prima di tutto c'è la dimensione della passione per Cristo. Teniamo presente che Paolo non annuncia un testo. Quando si presenta come banditore, cioè annunciatore del Vangelo, il Vangelo per lui non è uno scritto raccolto in 16 o in 28 capitoli. Per Paolo il Vangelo è il Signore Messia, il Signore Messia risorto. Quindi per lui il Vangelo è l'incontro con una persona che sente vivere dentro di sé, come ci attesta Galati, nella lettera ai Galati, al capitolo 2, versetto 20, dove Paolo dice: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Quindi questo suo movimento di partenza, di uscita per andare incontro all'altro, è un movimento che il Cristo vive dentro di lui. Quindi la partenza di Paolo è legata alla presenza del Cristo vivo dentro di sé. Oltre a questo c'è poi l'amore per le comunità. Sappiamo come Paolo non si limita a passare e a generare alla fede i credenti, ma vuole accompagnarli, è preoccupato della loro formazione, e questa formazione la tiene viva con tante dimensioni. La tiene viva attraverso il rapporto con i collaboratori, che vanno a prendere informazioni per vedere se le comunità stanno bene o meno. La tiene viva attraverso il rapporto epistolare, cioè scrivendo delle lettere. La tiene viva attraverso l'affidamento costante nella preghiera, attraverso l'offerta delle sue sofferenze, attraverso forme di aiuto nei momenti di difficoltà, come ad esempio la colletta. Quindi questo movimento in uscita è dettato anche dall'amore per le comunità, e questo caratterizzerà, come vedremo, soprattutto il terzo viaggio missionario di Paolo raccontato negli Atti. Poi questa spinta in uscita è dovuta anche a una precisa visione della storia. Paolo è convinto che la storia è ormai giunta al suo punto di arrivo. E se anche questo non fosse, la vita dell'uomo è comunque breve, e l'unico che ci aiuta a viverla con pienezza è il Cristo. Quindi è preoccupato che la maggioranza delle persone possa conoscere Cristo, il numero più alto possibile delle persone possa incontrare Cristo, fare esperienza di Lui, perché quello che Lui ha sperimentato sulla via di Damasco possa diventare l'esperienza di tutti gli uomini e di tutte le donne del suo tempo. Quindi notate, il movimento in uscita di Paolo non è dovuto a delle doti particolari dell'apostolo, ma all'esperienza forte che lui ha fatto di Gesù, un Cristo che è vivo dentro di lui, che lo spinge ad avere un'attenzione particolare alle comunità che ha fondato, ai credenti che hanno già aderito alla fede e soprattutto il desiderio di portare il Cristo anche a coloro che ancora non lo conoscono. Qui si nutre la missione a destra, quindi Paolo è parte viva di una comunità, ma come parte viva di questa comunità sente l'esigenza di una comunità che si mette in gioco in uscita. In questo Paolo ha una visione, oserei dire, diversa dalle comunità ebraiche del tempo, che erano comunità che attendevano la conversione dei pagani, quindi attendevano un movimento ad intra, non un movimento a destra, non avevano questa disposizione in uscita, tanto vero che esistono proprio degli studi che ci dicono che la missione come è concepita oggi nel mondo cristiano trova il suo riferimento principale in Paolo. Non c'erano forme missionarie di questo genere prima dell'apostolo Paolo. Ora, sempre il versetto 23 ci dice che parte con un obiettivo preciso. Partì, percorse successivamente le regioni della Galazia e della Frigia, confermando nella fede tutti i discepoli. Quindi l'obiettivo dell'apostolo Paolo in questo terzo viaggio missionario è quello della conferma, il consolidamento nella fede. Quindi notiamo che negli Atti degli Apostoli i viaggi missionari, i cosiddetti viaggi missionari, anche se noi li chiamiamo tutti con lo stesso nome, hanno delle finalità diverse. Il primo viaggio missionario ha una finalità aggregativa, molto simile a quella del popolo ebraico, cioè Antiochia manda Barnaba e Paolo per far conoscere l'esperienza di Cristo ad altre comunità e aggregarle alla comunità di Antiochia. La seconda esperienza missionaria è quella che vede Paolo viaggiare con Sila, quindi non è più in compagnia di Barnaba ma di Sila, e durante il viaggio si aggregheranno altre figure come ad esempio quella di Timoteo, di Aquila e Priscilla. È un viaggio diverso in quanto ha una funzione cherigmatica, cioè di annuncio. Paolo parte per annunciare il Cristo e per fondare comunità che diventano a loro volta generative. Certo, queste comunità sono aggregate alle altre chiese madre, ma in modo molto più libero. Diventano loro le comunità che fonda comunità madri che generano poi altre comunità nella fede. L'ultimo viaggio, quello che inizia al capitolo 18, al versetto 23, il versetto che abbiamo appena letto, è invece un viaggio di carattere confermativo, serve per consolidare la fede. Paolo ripassa nelle comunità che lui ha già visitato o nelle comunità dove il cristianesimo si è già consolidato in un certo senso per confermare la fede. E anche i protagonisti cambiano nei tre viaggi. Nel primo viaggio il protagonista è Barnaba, nel secondo viaggio il protagonista è Paolo, nel terzo viaggio i protagonisti sono tutti i collaboratori di Paolo, no? C'è Paolo insieme a tutti i suoi collaboratori. Ovviamente Luca, come annuncia fin dal prologo della sua opera, a Luca piace mettere ordine, quindi anche il modo in cui lui racconta la missione cristiana sembra essere tutto ordinato, poi di fatto in realtà queste caratteristiche magari nella realtà dei fatti si sono un pochino mescolate tra di loro. Sta di fatto che il terzo viaggio missionario narrato dal capitolo 18 versetto 23 in poi si caratterizza per questi elementi. Tra l'altro è l'ultimo viaggio che Paolo farà da libero, perché poi nella narrazione Paolo verrà al termine di questo viaggio fatto prigioniero a Gerusalemme, e quindi tutti gli altri capitoli degli Atti degli Apostoli ci presenteranno un San Paolo in catene. Quindi Luca ci tiene in modo particolare a presentare questo terzo viaggio missionario un pochino come l'apoteosi dell'esperienza missionaria di Paolo come apostolo libero, anche se il vero climax, cioè la vera fecondità del suo annuncio, non è qui, ma sarà quando lui è in catene, dove vive in pienezza il paradosso della croce. Quindi notiamo, in un solo versetto ci viene detto come la missione è esperienza di una comunità. Questa comunità è una comunità dove che vive l'inquietudine, la passione di condividere l'esperienza del Cristo con altre persone, e che sente il bisogno di consolidare la fede dei credenti. Facciamo un passo in avanti e notiamo come viene caratterizzato l'avvicinarsi di Paolo alla nuova comunità, che è la comunità di Efeso. L'autore degli Atti, Luca, ce lo descrive nei versetti dal 24 al 28, che leggiamo. A Efeso giunse un giudeo chiamato Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto e versato nelle scritture. Egli era stato istruito nella via del Signore e, ardente nello spirito, predicava e insegnava con precisione ciò che riguardava Gesù, pur conoscendo soltanto il battesimo di Giovanni, e cominciò a predicare con franchezza nella sinagoga. Dopo averlo ascoltato, Priscilla e Aquila lo presero con sé e gli esposero con maggior precisione la via di Dio. Allora, l'arrivo di Paolo a Efeso è preceduto da un'esperienza particolare del cristianesimo che viene un po' focalizzata nella figura di Apollo. Quando Paolo arriva a Efeso, il cristianesimo sembra essersi già consolidato, e si è consolidato non per la sua azione, ma per la presenza di altre persone, soprattutto due collaboratori che hanno giocato un ruolo di primo piano nell'esperienza di Corinto, che sono la coppia Aquila e Priscilla. Il focus del narratore si sofferma su questo personaggio Apollo, nativo di Alessandria. Di lui si dicono diverse cose, ed è strano perché normalmente Luca, come del resto anche gli altri evangelisti, non è che si soffermi molto sui dettagli, ma su Apollo si sofferma anche sui dettagli. Ci dice che è un giudeo, ed emerge subito che è un giudeo doc, è nativo di Alessandria, quindi è nativo di quella parte dell'impero romano dove il cristianesimo si diffonde molto presto, ed è un cristianesimo di stampo marciano, quindi un cristianesimo che si muove tra il giudaismo e il paganesimo, sapendo far dialogare queste due etnie. È un uomo colto, ci viene detto, il termine greco utilizzato per lui è logios, cioè una persona che parla, che sa parlare, la cui eloquenza è nota, insomma, è uno che sa dire le cose, si sa far ascoltare, ha un'abilità oratoria. Ecco, il fatto di avere una buona abilità oratoria non significa che però questa persona abbia la visione corretta delle cose, non sempre le due cose vanno insieme. Ci viene detto che è versato nelle scritture, e qui l'aggettivo utilizzato in greco è dynatos, cioè è potente quando parla delle scritture, è uno che sa dibattere al punto tale che è difficile tenergli testa, quindi è una persona adatta soprattutto per l'ambiente sinagogale, dove si venivano a creare dei dibattiti sulle scritture, è uno che sa tenere testa. È già stato istruito nella via del Signore, è già stato istruito nella via cristiana. Il termine utilizzato in greco è catechemenos, cioè è già stato catechizzato nella via del Signore. È ardente nello spirito, pieno di vitalità nello spirito, zeon è il termine greco utilizzato, e parla e insegna con precisione, anche se subito Luca si sente in dovere di mettere in discussione questa cosa, perché la sua acribia a insegnare con attenzione porta con sé un deficit, e il deficit è il fatto che Apollo, pur insegnando con precisione ciò che riguardava Gesù, conosceva soltanto il battesimo di Giovanni. Perché questo rappresenta un deficit? Perché il battesimo di Giovanni e il battesimo in Cristo sono due cose molto diverse. Il battesimo di Giovanni era un battesimo di conversione, dove tutta l'enfasi era posta sull'uomo invitato a cambiare vita. Nel battesimo di Giovanni l'uomo era il soggetto che doveva cambiare vita, tutto era affidato alla sua volontà. Nel battesimo cristiano invece la prospettiva è diversa, il soggetto non è l'uomo, il soggetto è Dio, il soggetto è lo spirito che permette al Cristo di abitare nel cuore dell'uomo, facendo sì che il Cristo sia soggetto della vita dell'uomo. Quindi non è lo sforzo della volontà a dominare, ma è l'accoglienza del dono di Cristo, l'accoglienza della vita di Cristo, che poi continua a vivere nei suoi. Se volessimo utilizzare un'immagine per distinguere il battesimo del Battista dal battesimo di Gesù, potremmo dire che il battesimo di Giovanni è come uno spazio convesso, cioè è come uno spazio appuntito, è come una freccia che punta in avanti, è l'io che punta in avanti. Il battesimo di Gesù invece è come uno spazio concavo, è come un grembo, è uno spazio accogliente che permette all'altro di vivere e di diventare protagonista nella vita. È proprio quello che constateremo al termine dell'incontro di Paolo a Efeso, dove ci viene detto che è la parola ad essere protagonista, cioè la parola viene accolta e la parola diventa protagonista, diventa colei che guida la comunità. Non è Apollo, non è Aquila e Priscilla, non è Paolo che guidano la comunità, ma è la parola di Dio che è stata accolta. Ecco, questo dà ovviamente i due battesimi anche un'impronta diversa. Il battesimo di Giovanni ha un'impronta apocalittica che punta tutto sul giorno dell'ira di Dio, quando l'uomo sarà giudicato in base alle sue opere. Il battesimo di Gesù ha un'impronta mistica, non apocalittica, dove Dio vive nei suoi e lo Spirito agisce nei suoi al punto tale da metterli in comunione con gli altri. Quindi capite bene che nonostante tutte le virtù elencate da Luca su Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, versato nelle scritture, catechizzato sulla via del Signore, pieno di vitalità, Apollo casca su un punto essenziale, cioè ha tantissime qualità, ha un'eloquenza imbattibile, è capace di affrontare nella sinagoga tutti i giudei, ma gli manca l'elemento essenziale, gli manca questa disposizione che è il battesimo nello Spirito Santo, l'unico che permette all'esperienza dell'uomo di essere uno spazio concavo. Chissà, forse anche per questo che nel martirologio romano, cioè nell'elenco dei santi della Chiesa romana, Apollo non c'è. C'è nel calendario greco, dove viene tra l'altro festeggiato l'8 di dicembre, nella stessa data dell'Immacolata Concezione, mentre non c'è nel calendario romano, dove Apollo è uno dei pochi collaboratori di Paolo che non viene menzionato. Paolo lo menziona più volte nelle sue lettere raramente il suo nome assume una tonalità negativa, sembra sempre essere una persona di cui Paolo ha grande fiducia, grande stima e che porta avanti l'annuncio del Vangelo in modo competente. Ecco, Lasciamo un attimo uno spazio musicale mentre vi invito a rileggere questi versetti che abbiamo commentato insieme, cioè il versetto dal 23 al 26. Poi continueremo per vedere come a Efeso il terreno di Paolo, per Paolo viene preparato ancora una volta da Aquila e Priscilla, che sono i terzi protagonisti a essere menzionati nella narrazione. Quindi un breve spazio musicale, dopodiché continueremo la nostra riflessione. Quindi il terzo viaggio missionario che stiamo commentando inizia presentando il protagonismo di Paolo nel cuore però di una comunità, nel tessuto di una comunità, e subito dopo ci mostra come questa comunità abbia altri protagonisti che entrano in scena. E stavamo proprio riflettendo sulla figura di Apollo, questo giudeo colto, eloquente, versato nelle scritture, che comincia a dibattere nella sinagoga. Ora il testo ci dice che, dopo averlo ascoltato, Priscilla e Aquila lo presero con sé e gli esposero con maggior precisione la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Il suo arrivo e la sua presenza furono di grande giovamento a coloro che avevano creduto per opera della grazia. Egli infatti confutava vigorosamente i giudei in pubblico, dimostrando attraverso le scritture che Gesù era il Messia. Allora, dopo la figura di Apollo, ecco comparire sulla scena nuovamente questa coppia cristiana, che è una coppia fenomenale, quella di Aquila e Priscilla, perché non solo hanno forgiato Paolo in un momento delicatissimo della sua esperienza a Corinto, ricordate, no? Quando Paolo era arrivato a Corinto, Paolo era depresso dopo tutta una serie di fallimenti, e questa coppia è quella che gli ridà vigore, che nella realtà di Corinto gli permette di riprendere forza e di riprendere il suo annuncio con tenacia, tanto vero che Paolo non si separa più da loro, quando parte da Corinto se li porta con sé e passando per Efeso dice: state qui che poi torno, ma intanto portate avanti voi l'opera di annuncio. E questa coppia di sposi hanno un comportamento fenomenale con Apollo. Proviamo a scandire un attimo il testo. Aquila e Priscilla, tra l'altro, qui permettetemi di correggere, sbaglio a dire Aquila e Priscilla, perché il testo dice Priscilla e Aquila, cioè in questa coppia di sposi chi tiene le fila del discorso è la donna, non l'uomo, e anche questo è significativo, no? Allora, questa coppia di sposi, prima di tutto ascolta, quindi vede quest'uomo che parla di Cristo, di Gesù, annuncia che Gesù è il Messia, si mettono lì ad ascoltarlo e si accorgono che, mamma mia, c'è qualcosa che non va, perché è vero che annuncia con acribia, è vero che annuncia con tenacia, è vero che dibatte, però gli manca qualcosa, e che è legata proprio al fatto di non aver ricevuto il battesimo nello Spirito. E allora cosa fanno? Lo prendono con sé. Questa coppia è davvero unica su questo punto, perché prima ha preso con sé Paolo, ora prendono con sé Apollo, e non è che per compiere l'opera formativa attendono il via libera della chiesa madre di Antiochia o di Gerusalemme, no, no, lo fanno loro. La loro è una relazione aperta al Vangelo, la loro è una relazione dove l'accoglienza dell'altro diventa una scuola, tanto vero che ci viene detto che espongono con maggior accuratezza la via di Dio. Questi due coniugi sono, sotto tutti i punti di vista, dei formatori di apostoli. La loro vita di coppia è una scuola di apostolato. Ecco perché Priscilla e Aquila possono essere considerati davvero come il modello delle coppie cristiane. E qui, agli inizi di questo terzo viaggio di missionario che, come vi dicevano, è un viaggio che ha come obiettivo quello di confermare la fede. Sembra quasi che Luca voglia dire: guardate che l'essere confermati nella fede non è tipico solo degli apostoli della statura di Paolo, è anche tipico di chi come Apollo, partendo dalla propria esperienza di vita, partendo dalle sue qualità illuminate dallo Spirito, può poi confermare nella fede, ma è anche tipico di quelle coppie che trasformano la loro vita in una scuola di apostolato. Ma non è mica finita qui, cioè Priscilla e Aquila, dopo aver ascoltato, dopo aver preso con sé Apollo, dopo aver insegnato ad Apollo come stanno veramente le cose con maggior accuratezza, lo raccomandano e lo mandano a Corinto. Sembra che attorno a questa coppia sia raccolta l'intera comunità cristiana che insieme raccomanda Apollo alla comunità di Corinto. E uno si chiede: ma come mai questo giudeo voleva andare a Corinto? E come mai viene raccomandato alla comunità? I motivi possono essere vari, forse perché il limite della comunità di Corinto era proprio quella che era costituita in gran parte da pagani che avevano aderito al cristianesimo e che avevano un po' di difficoltà con la sinagoga locale e probabilmente avevano anche difficoltà a ribattere agli ebrei proprio per la loro ignoranza nel giudaismo. E allora uno che era esperto nell'arte oratoria, che proveniva dal giudaismo, poteva fare proprio comodo alla comunità di Corinto, fortificandola, perché diventava colui che sapeva tenere testa ai giudei che contestavano la presenza cristiana. Tra l'altro una variante aggiunge invece che la motivazione è diversa, una variante molto antica al testo, dice che in Efeso abitavano alcuni corinzi, i quali, avendo ascoltato, lo pregavano, cioè Apollo, pregavano Apollo, di andare con loro nella loro patria. Avendo dato il suo consenso, gli Efesini scrissero ai discepoli di accoglierlo e fu di grande giovamento nelle chiese. Ecco, il testo occidentale, questa è la fonte di questa variante antica, riporta che la motivazione per cui Apollo viene raccomandato alla chiesa di Corinto è proprio perché a Efeso c'erano alcuni membri di quella comunità che hanno visto in Apollo un'ottima opportunità per consolidare la chiesa. E sappiamo che Apollo non farà fatica a farsi strada a Corinto. Se voi leggete la prima lettera di Paolo ai Corinzi, notate che Paolo contesta una chiesa divisa, dove le chiese domestiche, cioè le diverse comunità cristiane che hanno preso piede nella città, sono un pochino in tensione tra di loro e qualcuna si appella a Apollo, un'altra si appella a Paolo, l'altra si appella a Cefa, un'altra si appella a Cristo, ma fanno fatica ad essere un corpo unico. E allora Paolo contesta la cosa dicendo: guardate che non è essenziale né Apollo né Paolo né Cefa, ma l'essenziale è vivere tutti, essere tutti uniti nel Cristo, avendo Cristo come capo di un unico corpo che è la Chiesa. Quindi questo ci fa capire che Apollo diventa presto una delle punte della comunità cristiana di Corinto. Quindi in poche righe l'autore degli Atti ci presenta tre diversi volti di apostoli, tutti dediti a confermare la fede. Quello di Paolo, che è un fondatore padre carismatico, fecondo all'interno della comunità, quello di Apollo, annunciatore di livello, erudito, dotato, capace di dibattere con la comunità ebraica, e infine quello di Priscilla e Aquila, una coppia aperta e intraprendente che trasforma la propria relazione in scuola del Vangelo e la propria casa in chiesa domestica. Quindi tre volti diversi nei quali penso ognuno di noi può in qualche modo riconoscersi. Ma arriviamo a Paolo, cioè a quando Paolo giunge nella comunità di Efeso. Siamo al capitolo 19, continuo nella lettura. Mentre Apollo era a Corinto, quindi Apollo era già stato raccomandato e si era già trasferito a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'altipiano, giunse a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli ai quali chiese: avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? Gli risposero, non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo. Ed egli chiese, quale battesimo avete ricevuto? Il battesimo di Giovanni, risposero. Replicò allora Paolo, Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, invitando il popolo a credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù. All'udire ciò si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo. Si misero a parlare in lingue e a profetizzare. In tutto erano circa 12 uomini. È interessante notare il viaggio missionario che deve consolidare nella sede, oltre a consolidare nella fede deve correggere, deve apportare dei correttivi. E leggendo questo testo spuntano alcune domande. Allora, prima domanda, la questione è ancora questo benedetto battesimo. A Efeso l'annuncio del Vangelo si è sì stabilito, ma sembra mancare di qualcosa. L'abbiamo visto in Apollo, ma non riguarda solo Apollo, riguarda la comunità. E allora ci domandiamo, come mai Aquila e Priscilla non sono intervenuti con i discepoli come erano intervenuti con Apollo? Come mai non hanno battezzato? Questa coppia di sposi non battezza, non ha corretto l'annuncio cristiano, si sono limitati a farlo prendendo in disparte e accogliendo Apollo. Seconda domanda, come fanno a dirsi discepoli? Come mai li chiama discepoli se hanno ricevuto solo il battesimo di Giovanni? Allora, chi è il discepolo di Gesù? È uno che ha ricevuto lo Spirito o uno che non lo ha ricevuto? E infine, senza Spirito Santo, questi discepoli possono dirsi cristiani o no? Cerchiamo di rispondere a queste tre domande. La prima domanda, come mai Aquila e Priscilla non sono intervenuti con i discepoli di Efeso? E qui è interessante, Aquila e Priscilla sono figure chiave, ma il dono del battesimo passa da chi ha un legame con la Chiesa Madre, da chi ha un legame apostolico con la Chiesa Madre. Luca sembra sottolineare che il dono del battesimo passa solo da chi svolge un apostolato, da chi porta il titolo di apostolo o da chi è diacono come Filippo, cioè da chi dedica l'intera vita all'annuncio della parola. I ministeri quindi sono diversificati, non si verifica che tutti fanno tutto, ma ciascuno agisce con responsabilità e compiti che sono diversi e complementari. Anche nel caso di Apollo, Aquila e Priscilla intervengono per formare, per completare la visione cristiana, ma non si fa alcun cenno del battesimo di Apollo nello Spirito, anche se lui conosce solo il battesimo di Giovanni. Quindi notate, il battesimo può essere donato dagli apostoli, può essere donato da Paolo o al massimo dai diaconi, come ad esempio Filippo. Altri in questo momento non possono ancora conferire il dono del battesimo. Seconda domanda, come fanno a dirsi discepoli se hanno ricevuto solo il battesimo di Giovanni? Allora, l'essere discepolo vale per chiunque. E se noi ricordiamo il cammino dei dodici, i dodici non è che per essere discepoli devono attendere di essere battezzati, no? Il discepolato inizia fin dalla chiamata sul lago di Galilea, ma l'essere l'identità cristiana di questi discepoli quando sarà piena? Sarà piena solo a Pentecoste, nel momento in cui ricevono la pienezza dell'esperienza pasquale. E quindi il discepolato precede l'identità cristiana, è come dire l'inizio di un cammino verso l'identità cristiana, quindi è giusto che Luca definisca i credenti di Efeso discepoli, anche se ancora non hanno ricevuto il battesimo. L'identità però cristiana in pienezza, e qui rispondiamo alla terza domanda, è possibile solo se c'è il dono dello Spirito Santo, perché solo lo Spirito plasma il Cristo in noi, permettendo poi al Cristo di essere protagonista della nostra vita. Solo grazie allo Spirito si avvia un cammino in cui, come diceva il mio padre fondatore, che è il beato Giacomo Alberione, per il mio fondatore l'esperienza di esercizi spirituali è autentica, il cammino cristiano è autentico solo nel momento in cui, cito, il Cristo solo vive, pensa, opera, ama, vuole, prega, soffre, muore, risorge in noi. 9 verbi stupendi che dicono cosa vuol dire passare dal semplice essere discepoli all'essere cristiani. Per il cristiano, nel cristiano, il Cristo solo vive, pensa, opera, ama, quindi mente, volontà e cuore, vuole, prega, soffre, muore e risorge, il mistero pasquale, in noi. 9 verbi con cui viene sintetizzato il compimento della vita cristiana. Però senza lo Spirito questa dimensione non può avvenire. Perché non può avvenire? Perché la disposizione dell'uomo resta convessa, resta come una freccia dominata dall'io, mentre non deve essere l'io a dominare, deve essere il Cristo dentro di noi. Ed è interessante che Luca nota che non appena Paolo ebbe imposto le mani, scende lo Spirito Santo, parlano in lingue e profetizzano, cioè si verifica ciò che era successo in Atti 2 a Pentecoste, e poi annota erano in tutto 12 uomini. Come la prima Pentecoste genera il nuovo Israele, così la Pentecoste di Efeso genera la nuova umanità. È un'umanità aperta a tutti, quella che viene generata. Siamo alla quarta Pentecoste, che dopo quella di Gerusalemme, quella della Samaria e quella di Cesarea in casa di Cornelio, apre le porte della Chiesa al mondo. E notiamo, di queste 4 Pentecosti, 3 su 4 sono tutte dedicate al popolo extragiudaico, cioè a un popolo diverso da quello del giudaismo, per dire come tutti vengono raggiunti dall'amore di Dio. Questi non vuole che alcuno dei suoi si perda. Ora, il discorso dell'apertura di Dio a tutti i popoli non è una caratteristica esclusivamente cristiana, soggiaceva già anche al popolo ebraico. Pensate, ci sono, ieri o giovedì scorso, dipende dalle comunità cristiane, no? Ma abbiamo celebrato la solennità del Corpus Domini, e l'immagine che prefigura il corpo e il sangue di Cristo nell'Antico Testamento è la manna. Ci sono dei midrash molto belli, no? Che dicono, che fanno capire come la manna, pur essendo riservata al popolo di Dio, quindi al popolo di Israele, nutriva anche i popoli pagani, mettendo in loro una grande nostalgia del Dio unico. Come? Ci viene detto che nella scrittura, nel libro dell'Esodo, viene detto che la manna che avanzava, che non veniva raccolta, si scioglieva. E allora i rabbini dicono, questa manna che si scioglieva veniva bevuta dagli animali, gli animali venivano uccisi dai popoli pagani, i popoli pagani si nutrivano di quegli animali che si erano nutriti della manna, quindi indirettamente si nutrivano di manna, e questa manna metteva in loro una grande nostalgia del Dio unico, proprio per dire che Dio non vuole che alcuno dei suoi si perda, e tutti chiama con un appello. Ora, il dono dello Spirito chiaramente è un appello molto più forte che viene fatto a tutti gli uomini di buona volontà. Andiamo avanti e leggiamo l'ultimo brano, e con questo concludiamo la riflessione di questa sera. Entrato poi nella sinagoga, Paolo vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori in ciò che riguarda il regno di Dio. Ma poiché alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere, dicendo male in pubblico di questa via, si allontanò da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di Tiranno. Questo durò per 2 anni e così tutti gli abitanti della provincia d'Asia, giudei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore. Notate, a Efeso succede quello che era successo a Corinto. Paolo inizia nella sinagoga, poi nascono le tensioni, si ritira in un'altra casa, là era la casa di Tizio Giusto, qui è la casa di Tiranno, e da lì porta avanti il suo ministero per un periodo prolungato. Là era 1 anno e mezzo, qui invece sono addirittura 2 anni. Dio intanto operava prodigi non comuni per mano di Paolo, al punto che mettevano sopra i malati fazzoletti o grembiuli che erano stati a contatto con lui e le malattie cessavano e gli spiriti cattivi fuggivano. Quindi la fecondità della parola, l'azione dello spirito in Paolo, si trasmette, si evidenzia, dà segnali forti attraverso i miracoli. Ma non ci sono solo i miracoli. Andiamo avanti. Alcuni giudei che erano esorcisti itineranti provarono anch'essi a invocare il nome del Signore Gesù sopra quanti avevano spiriti cattivi, dicendo: «Vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica». Così facevano i 7 figli di un certo Sceva, uno dei capi dei sacerdoti, giudeo. Ma lo spirito cattivo rispose loro: «Conosco Gesù, so chi è Paolo, ma voi chi siete?» E l'uomo che aveva lo spirito cattivo si scagliò su di loro, ebbe il sopravvento su tutti e li trattò con tale violenza che essi fuggirono da quella casa nudi e coperti di ferite. Il fatto fu risaputo da tutti i giudei e i greci che abitavano Efeso e tutti furono presi da timore e il nome del Signore Gesù veniva glorificato. Cioè Paolo, forte dell'azione dello Spirito e del protagonismo della parola in lui, compie miracoli ed esorcismi. Il rischio in un ambiente pagano, come era successo del resto in altre realtà durante la sua itineranza, è quello di scambiare questo dono in un potere, in una magia. Tanto vero che alcuni ci provano e il narratore spiega subito che non è un potere magico, ma è lasciare la presenza viva del Cristo in sé. Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche di magia e un numero considerevole di persone che aveva esercitato arti magiche portavano i propri libri e li bruciavano davanti a tutti. Ne fu calcolato il valore complessivo e si trovò che era di 50.000 monete d'argento, una cifra spropositata. E questo ci dice che la vera adesione a Cristo produce una conversione. L'operare miracoli e l'operare esorcismi, in che senso si differenzia dalla magia? La magia ha come soggetto il mago, il miracolo e l'esorcismo operati da Paolo hanno come soggetto la forza viva del Cristo, è il Cristo che vive in Paolo. È proprio quel passaggio necessario ad Apollo, necessario ai credenti di Efeso, che ancora non è stato, non si è operato in tutti. Ed ecco la frase finale, l'ultimo versetto di oggi: così la parola del Signore cresceva con vigore e si rafforzava. Qual è il vero protagonista di tutto il brano e soprattutto dell'inizio di questo terzo viaggio missionario di Paolo? La vera protagonista è la parola, una parola che cresce e si rafforza come una persona. In che senso cresce e si rafforza? Cresce e si rafforza perché è efficace, è creativa, come all'inizio della creazione. Ciò che dice, compie. Ecco perché si realizzano miracoli. Ecco perché si realizzano esorcismi, ecco perché si realizzano conversioni. Cresce e si rafforza perché è lei la protagonista che guida, apre, spinge, forma le comunità. Lo notiamo nel ministero di Paolo. Paolo non parte con un progetto fatto a tavolino, ma parte sì con una linea di percorso che poi viene continuamente aggiustata e raddrizzata dalla parola e dallo Spirito Santo. Sono loro che dettano legge. Paolo non aveva nessuna idea di venire in Europa, ma a un certo punto della sua missione tutte le barriere erano chiuse, cioè non gli permettevano di andare dove voleva lui, finché quella visione durante la notte, no, del Macedone, che gli dice: passa in Europa e aiutaci. Quello è il passaggio del cristianesimo da un continente all'altro. Infine la parola cresce e si rafforza perché diventa quel nutrimento vitale e decisivo che plasma la vita dei credenti e li fa passare dal battesimo di Giovanni al battesimo nello Spirito. Eccoci, cari ascoltatori, anche questa sera abbiamo commentato alcuni versetti degli Atti degli Apostoli, ci siamo spinti fino all'arrivo di Paolo ad Efeso, la volta prossima vedremo il contrasto tra Paolo e il mondo pagano rappresentato dai difensori del culto della Dea Artemide, ma ci fermiamo qui questa sera, quindi adesso nel breve stacco musicale la regia vi darà indicazioni per intervenire nella nostra trasmissione e per continuare insieme a condividere quanto ci siamo detti e ad approfondire la parola che abbiamo letto. Lascio quindi la parola alla regia e invito voi che siete all'ascolto di rileggere, prima di formulare la vostra domanda, di rileggere i versetti che abbiamo commentato insieme. Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito. Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, guardi, sono Franco da Savona. Mi dica Franco. Volevo dire questo, io allargando un po' il discorso, vedo la grande bontà di queste conversazioni sugli Atti degli Apostoli e anche sulle lettere di San Paolo in genere. E io ho preso a cuore da anni e vedo che nella scuola, abbia pazienza, non viene, nell'ora della religione non viene assolutamente commentata nessuna di queste cose qua, che sarebbero di un'educazione suprema, invece i ragazzi non vengono coinvolti per niente ed è anche per questo che tanti si esonerano dall'ora di religione. Sono cose di una sublimità, non so come dire, educativa, ma se lei, tra l'altro, sono legate a, io sono un appassionato del mondo classico greco-latino, c'è il capitolo 17 di San Paolo, dove lui all'Areopaga di Atene non fa altro sotto che, per convertire lì ebrei e greci, di citare l'inno a Zeus di Cleante, cioè dello stoico Cleante. Ma come mai viene, cioè non so, gli insegnanti di religione cosa fanno? Non fanno niente. Io sono stato nel mondo della scuola, recentemente ci giro, non si fa niente in queste cavolo di ore, sarebbero l'unica, ultima occasione di educare i ragazzi. Grazie di cuore Franco, allora prima di tutto per quello che hai detto, no? Effettivamente se ci unissimo, veramente penso che riusciremmo a far innamorare, no? della parola di Dio e in alcune pagine come in queste, ma anche alcune pagine dell'Antico Testamento, la parola ci presenta degli scorci in dialogo con la storia antica, la storia classica, che sono stupendi e per cui ci permettono anche di creare, come dire, dei ponti, delle aperture, degli orizzonti molto significativi. Ovviamente per far questo è importante che ci siano delle sensibilità, come la sensibilità alla parola che può caratterizzare me, ci vuole la sensibilità al mondo classico che caratterizza lei. Quando noi mettiamo insieme queste cose, le condividiamo, ne risultiamo tutti più arricchiti. Lei arricchisce la mia esposizione come io posso arricchire le sue conoscenze, dando un volto a quella parola che comunque è una parola viva, non chiusa nelle pagine. Quindi grazie Franco per la sua testimonianza e anche la passione che traspare dalle sue parole. Pronto? Pronto, sì. Buonasera, dunque, con chi parlo? Dunque, io sono Roberto, un medico di Milano, San Donato, e Avevo un passato, una fede, eccetera, poi non so come sono sempre affascinato da questi discorsi che fanno Radio Maria, anche se io sono una persona di cultura, insomma, di diversa provenienza. Una cosa che quando una figura di Paolo mi ha sempre affascinato di questo ebreo, che poi si è convertito, che è un po' la diciamo è la storia di ogni convertito, insomma. Allora, però negli Atti degli Apostoli, fino ad ora, ho letto, ho sempre sentito come protagonista Paolo, ma gli altri apostoli dove sono? Si faranno, accompagneranno dopo, non lo so, invece mi sembra che il principale protagonista sia Paolo, o già possiamo passare come apostoli due coniugi e o Apollo, non lo so, sono domande che mi pongo dopo che non ho mai affrontato il discorso dei testimoni. Grazie, grazie mille dottor Roberto per questa sua domanda, per questo suo intervento. Allora, effettivamente una caratteristica del narratore degli Atti degli Apostoli è proprio quella di non mostrare l'apostolo, cioè Paolo, come un annunciatore solitario del Vangelo. Ci sono alcuni addirittura che correggono sulla base del testo occidentale, cioè sulla base di uno dei testi più antichi degli Atti degli Apostoli, correggono addirittura il titolo degli Atti, no? Dicendo non Atti degli Apostoli, ma Atti dei due Apostoli, perché alla fine i protagonisti sono due, ma non per porre l'accento su Pietro e su Paolo, ma per porre l'accento su una chiesa di comunione, dove anche Pietro e Paolo non sono solitari. Se voi noterete, tutti i primi 15 capitoli hanno come protagonista fondamentale Pietro, ma anche Pietro non è che si presenta mai da solo. Pietro è sempre in compagnia di qualcun altro, soprattutto nella prima parte in compagnia di Giovanni. Ugualmente Paolo, nella seconda metà della narrazione, durante tutti i viaggi anche missionari, non è mai solitario, è in compagnia ora di Barnaba, ora di Sila, ora di questa coppia di coniugi, ma non sono gli unici protagonisti dell'annuncio cristiano. Ad esempio, dagli Atti degli Apostoli, noi non riusciamo a capire chi ha fondato la comunità cristiana di Roma. Sono dei credenti anonimi. Chi ha fondato la Chiesa Madre di Antiochia? Sono dei credenti anonimi. Quindi, quando Paolo o Pietro arrivano in queste comunità, il cristianesimo ha già le sue ramificazioni, ha già trovato il suo spazio. Poi avrà bisogno di altre persone per, come dire, consolidarsi, per assumere il suo vero volto, avrà bisogno dell'intervento di Paolo che conferma nella fede, che dà il battesimo, che raddrizza alcune visioni. Pensiamo anche ad esempio alle grandi svolte della Chiesa cristiana delle origini, la Chiesa di Gerusalemme. Non sono operate dagli apostoli le grandi svolte, sono operati da quelli che gli apostoli vorrebbero tenere chiusi in un certo senso nel servizio delle mense, dedicarsi alle opere di carità, e invece sia Stefano che Filippo sono quelli che spingono il cristianesimo nell'orizzonte del mondo cristiano, molto prima di Paolo, molto prima di Paolo. Quindi uno nell'orizzonte pagano, l'altro nell'orizzonte samaritano. Quindi notiamo, caro Roberto, come il messaggio che ci proviene dal narratore degli Atti degli Apostoli è proprio quello, cioè Paolo e Pietro sono sì le colonne della Chiesa, ma non intese come colonne solitarie che portano avanti l'annuncio in autonomia del Vangelo, ma come segno di una comunione che raccoglie attorno a sé diverse sensibilità e diversi contributi. Sono generatori di apostoli, di altri apostoli. E quest'oggi La pagina del capitolo 18-19 degli Atti lo manifesta molto bene con Paolo, Apollo, Aquila e Priscilla ed altri credenti che intervengono. Grazie di cuore Roberto per il suo intervento. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parlo? Sono Emiliano, da Roma, padre. Benissimo Emiliano, prego. Ecco, così rapidamente cerco di spiegarmi. Diciamo che ho avuto la fortuna fin da ragazzo di avere dei bravi maestri, fin dalla prima comunione, e poi durante il procedere degli anni ho incontrato un prete illuminato, mi oso dire, che mi ha insegnato tanti principi, tanti valori. Diciamo che io fino a non molto tempo fa, mi sembra, come oggi lei parlava e spiegava abbastanza bene sicuramente, di aver vissuto il battesimo di Giovanni, cioè praticamente quello che richiede la giustizia, il cambio di rotta nella vita, che richiede, che esige il rispetto delle persone, che esige il rispetto della donna, il rispetto del prossimo, del creato, del vicino di casa, aiutare chi si può. In questa fase, un po' Pentecoste, un po' non lo so, insomma, immodestamente, io non vorrei adesso dire cose strane, mi sembra, adesso sono un po' emozionato anche, non sono abituato a parlare in pubblico, mi sembra un po' di vivere il battesimo, quello più bello, quello più anche gradevole, piacevole, più legato alla consapevolezza, più legato al nostro vero profondo essere, il battesimo di Gesù, dello Spirito Santo, insomma, oso dire. Il mio problema è questo, padre. Sì, grazie Emiliano per il tuo intervento. Effettivamente, guarda, per tutti noi arriva un momento, no, nel proprio percorso di fede in cui la nostra fede fa, come dire, come un salto di qualità. E il battesimo di Giovanni non era un battesimo negativo, e disponeva i cuori alla conversione, però conteneva un rischio, il rischio che il soggetto fosse sbagliato, cioè che il soggetto fosse l'io dell'uomo, che si sforza, meno male che c'è anche questo sforzo, però che si sforza per rispondere a Dio. La logica di Giovanni resta ancora in un certo senso la logica dell'obbedienza al comandamento, dell'obbedienza alla legge. Ecco perché non è sorto nessuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Nella logica del regno il soggetto cambia, è accogliere il dono di Gesù, sentirlo vivo in noi e permettere a Gesù di essere protagonista della nostra vita. Ecco perché la Chiesa cattolica venera i santi. Venera i santi non per mettere in evidenza le virtù personali, le qualità personali di Antonio, di Agata, di Girolamo, di Gervasio e Protaso oggi, ma per vedere l'azione del Cristo in loro, quello che il Cristo ha operato dentro di loro. Oggi pomeriggio sentivo, nel primo pomeriggio, la catechesi, no, di Padre Livio sui padri del deserto, no? E lui lo sottolineava molto bene come l'azione, il cammino spirituale dei padri nel deserto è proprio un cammino di imitazione nel senso di conformazione a Cristo, di sentire il Cristo vivo dentro di loro, e in questo diventano maestri. Ecco, in genere questo passaggio lo sentiamo a un certo punto, cioè lo Spirito prepara ciascuno di noi, ci sono momenti diversi per ciascuno di noi, ma quando si arriva a questa sorta di battesimo nello Spirito, cioè di sentire lo Spirito vivo in noi che plasma il Cristo in noi, anche il cammino cristiano diventa un cammino più, come dire, più sereno, più pacificato, perché tutto teso ad accogliere un dono che ci precede, un amore che ci precede, e quindi anche la visione delle cose cambia un pochino. Grazie Emiliano per la tua testimonianza e auguri per il tuo cammino di fede. Pronto? Pronto? Buonasera, sì? Con chi parlo? Buonasera, sono Mirella da Parma. Io volevo dire che ho imparato, Paolo, attraverso le trasmissioni di Radio Maria di Paul Dreyfus, che purtroppo erano sempre di notte, ma siccome in quel tempo non dormivo, mi sono innamorata di Paolo e ho seguito tutto e ho imparato gli Atti degli Apostoli proprio attraverso questo percorso di Paolo, perché pur essendo nella chiesa da 50 anni, nelle parrocchie varie, gli Atti non li fanno mai, fanno tutti i corsi sui vari Vangeli, ma la storia della chiesa e della nascita della Chiesa sta tutta negli Atti degli Apostoli, e io ho continuato a dirle, lo continuo a dire anche adesso, ho fatto fare dei corsi anche a degli incontri e tutti quanti si meravigliano, per dire, ma sai che io non avevo mai, perché li sentiamo nella messa, ma sempre frazionati, mai messi insieme come ha fatto lei anche oggi, che io per caso l'ho presa questa trasmissione, e soprattutto, come diceva quello precedente, non lo fanno nelle scuole. Alle elementari i miei bimbi hanno smesso di andare a religione, mi ha detto nonna, ma sai che non parlano mai di Gesù, sai che non parlano mai, perché io naturalmente il catechismo ce lo fai tu, perché è vero, perché noi non riusciamo in tutti gli anni della Chiesa a cogliere questo aspetto del percorso della Chiesa dopo la morte di Gesù, la nascita della Chiesa e arrivare fino a Paolo, che poi è stato il diffusore. È stata una cosa straordinaria, mi è piaciuto molto, ho anche la sua trasmissione di oggi, la ringrazio. Grazie Mirella per il tuo intervento. Allora, ha citato Paul Dreyfus, è effettivamente un grande divulgatore di Paolo, una delle biografie più belle sull'Apostolo e proprio porta proprio la sua firma. Che dire, a volte si ha un pochino timore di accostare Paolo, no? Perché si dice che è un autore difficile, si dice che la sua storia è un pochino ostica, anche per il carattere appassionato dell'Apostolo, però quando si fa questa lettura continua, no? O di un testo che parla di lui, come gli Atti degli Apostoli, o delle sue lettere, si entra un pochino in familiarità con lui, nella familiarità con lui, allora si scopre la bellezza, anche perché, diciamocelo, cioè la fotografia delle prime comunità cristiane, la complessità di quello che le prime comunità vivono, gli sbandamenti dei primi credenti, ci vengono raccontati da Paolo. I testi più antichi del Nuovo Testamento in nostro possesso sono le lettere di Paolo, prima dei Vangeli. Allora, questo ci offre uno scorcio su il mondo, sul cristianesimo della prima ora, anche se ovviamente il Vangelo racchiude non solo il mistero pasquale, ma tutto è il ministero pubblico di Gesù, la vita di Gesù, e quindi io mi accontenterei se almeno i Vangeli venissero letti per intero all'interno delle scuole, poi ovviamente una cosa tira l'altra. Ecco, approfitto anche del suo intervento per dire la vera catechesi, la prima catechesi, cara Mirella, è proprio quello che si fa a casa, Deo gratias che se i ragazzi vanno ancora a catechismo, però la vera catechesi, quella che incide di più e i primi maestri sono i genitori, sono le coppie, le chiese domestiche, come Aquila e Priscilla. Ben venga se poi c'è la classe di catechismo che cerca di consolidare quello che uno respira in casa, ma è più facile che si radichi nel cuore dei nostri ragazzi quello che imparano in famiglia che non quello che imparano nelle classi di catechismo, a meno che il catechismo abbia il rinnovamento che proviene dallo spirito conciliare, che io vedo, permettetemi di dirlo, ancora poco nelle comunità cristiane. Siamo abituati ancora a una forma di catechesi che scimmiotta le lezioni a scuola, dove c'è il catechista seduto alla cattedra che nel migliore dei casi tiene una lezione, nel peggiore dei casi fa fare i disegnini. Ma la catechesi è ben altra cosa. Se la catechesi non diventa un'esperienza di quella parola che viene letta, che viene commentata, se non mette in contatto con l'esperienza del Signore, se non mette in contatto con i testimoni della fede, se non diventa esperienza, detta con un termine altisonante, mistagogica, cioè che introduce nei misteri della fede, difficilmente incide sulla vita dei nostri ragazzi o sulla vita degli adulti per chi porta una catechesi continua in sé. Quindi grazie di cuore Mirella per il tuo intervento e auguri per la tua opera di educatrice. Pronto? Pronto? Buonasera, pronto? Con chi parlo? Io parlo con Anna Scusi della provincia di Latina. Bene, signora Anna, mi volevo dica. Volevo darle prettamente ragione sia a lei che a tutti i radioascoltatori che hanno fatto prima l'intervento prima di me. Praticamente io sono un'insegnante, tra poco dovrò andare in pensione, ma non perché sono stanca, ma perché ho raggiunto il massimo del mio servizio, anche se non anagraficamente. E a volte mi chiedono, dice, ma perché non te ne vai in pensione? Allora io dico, io non decido niente, io dentro sento una voce, sento qualcosa che mi dice di fare o di non fare una cosa. Premetto che non ho mai preso un giorno di congedo in 42 anni, vuol dire che io volevo dare tutto, non so se l'ho dato, non voglio peccare di immodestia, però sentivo di dare quello che Dio mi ha mandato a fare, è più di una missione praticamente, e allora mi rispondono, ma che cosa stai dicendo? Praticamente per molti, non per pochi, non esiste la voce dello Spirito Santo, non esiste ciò che... E poi do prettamente ragione a quelli che sono intervenuti prima di me, cioè nelle scuole, io non insegno religione, ma dove tutti i ragazzi fanno religione, non è perché l'altra volta ho fatto un intervento quasi simile, ma qualche radioascoltatore mi ha detto, ma chissà se tutti facevano, è logico, in una classe dove fanno tutti religione, di tutto si parla, fuorché di fare delle catechesi sulla vita di Gesù, sugli esempi, su ciò che Gesù ci ha insegnato e ci vuole continuare ad insegnare. Sì, fanno fare il disegnino, è passata l'ora, io non voglio parlare male di questi insegnanti di religione, però poiché io vado a insegnare matematica e cerco di far comprendere tutti i concetti ai ragazzi, la stessa cosa dovrebbe fare quella di religione, tanto più che nella scuola primaria ci hanno fatto fare dei corsi di aggiornamento. Va bene Anna, ecco, non è l'obiettivo di questa trasmissione parlare dell'insegnamento della religione, sottolineo solo due cose, a parte l'onore al merito che quello non c'entrava proprio, però distinguiamo una cosa è la catechesi, un altro è l'insegnamento della religione. L'insegnamento della religione è molto diverso dalla catechesi, la catechesi introduce in esperienze, l'insegnamento della religione deve avere uno sguardo a 360 gradi e ha più a che fare con la formazione della mente e dei cuori ovviamente, ma parte da un discorso conoscitivo. La catechesi invece è un discorso che non è solo conoscitivo, potremmo dire proprio la differenza, ricollegandoci al discorso che abbiamo fatto stasera, il buon Apollo era un bravo insegnante di religione, ma non era ancora catechista, perché aveva solo il battesimo di Giovanni. Il battesimo di Giovanni gli permetteva di essere erudito, di essere colto, di dibattere bene, però l'esperienza cristiana richiede di più, richiede di lasciar trasparire la vita del Cristo vivo dentro di noi. Ed è un'altra cosa questa, perché questa non tocca solo la mente o la volontà, ma tocca tutto l'essere, rendendolo simile a Cristo, rendendolo sale della terra e luce del mondo. Grazie per il suo intervento che mi ha permesso di fare questa precisazione. Cari ascoltatori, il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi saluto tutti voi che siete stati all'ascolto, che avete seguito questa porzione degli Atti degli Apostoli. Stiamo facendo la lettura continua degli Atti, pensate, da 4 anni oramai, e siamo arrivati al capitolo 19, quindi avremo ancora un bel pezzo di strada da fare insieme. Ringrazio quanti sono intervenuti: Franco da Savona, Roberto da Milano, Emiliano da Roma, Mirella da Parma e Anna da Latina. Ecco, su tutti voi invoco la benedizione di Dio e che lo Spirito che abita i nostri cuori ci renda sempre più conformi a Cristo. Buona serata a tutti, ci risentiamo tra un mese. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.